Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti, buon inizio settimana da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Ci sono un bel po' di polemiche che si stanno sollevando in seguito all'annullamento di fatto dei limiti al pignoramento di stipendi e pensioni da parte di terzi. Conseguenza di una sovrapposizione questa delle novità introdotte prima dal decreto Salva Italia alla fine del 2011 e poi dal decreto legge sulle semplificazioni un anno fa. I limiti attualmente previsti riguardano soltanto i cosiddetti prelievi alla fonte, quindi quelli che avvengono direttamente presso il datore di lavoro o l'ente pensionistico. Nei casi in cui invece un creditore possa attuare il pignoramento direttamente sul conto corrente, alla luce del fatto che c'è stata una novità recente, cioè quella dell'obbligo di accreditare in banca stipendi e pensioni oltre i 1000 euro, e allora questi diventano nei fatti interamente prelevabili. Sembra una circostanza un po' complicata per come l'abbiamo raccontata, ma in realtà è molto più semplice, appunto, forse di come l'abbiamo fatta. È una circostanza che in ogni caso ha fatto scattare da qualche settimana una vigorosissima protesta da parte delle associazioni dei consumatori. Ne sentiremo questa mattina una, il Movimento Difesa del Cittadino, che ha anche lanciato una petizione. D'altra parte l'Agenzia delle Entrate dice c'è un vuoto normativo, noi non possiamo fare diversamente che riscuotere quanto ci spetta attraverso queste modalità. Noi stamattina cercheremo di spiegarvi questa situazione, le novità che sono intervenute recentemente, rispondendo anche ai dubbi degli ascoltatori, e ci confronteremo appunto con i nostri ospiti su quello che appunto alcuni hanno già definito, come la stessa Agenzia delle Entrate, un preoccupante vuoto legislativo. È un problema molto serio perché c'è un numero crescente di famiglie che sta vivendo in una condizione di forte disagio economico, famiglie che si indebitano e poi non riescono a stare al passo con i propri impegni finanziari. Basti pensare che nel 2012 c'è stato un boom di pignoramenti che hanno riguardato soprattutto case gravate da un mutuo, ma non solo. Ed è una situazione che purtroppo non tiene conto delle ragioni per cui una persona può accumulare debiti, e allora poi scattano i pignoramenti dai quali difficilmente ci si può difendere. 800 24 00 24, vi lancio subito il nostro numero verde che vi dà l'opportunità di intervenire in diretta nella nostra trasmissione. Vi siete mai trovati nella circostanza di subire il pignoramento del vostro stipendio o della vostra pensione? E allora avete delle domande su questa circostanza, appunto in che situazione è avvenuto tutto questo, che tipo di impegni finanziari non riuscivate a rispettare? Raccontatecelo anche al 349-238-6666, scriveteci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, siamo anche su Facebook e su Twitter. Insieme a noi questa mattina, oltre al presidente del Movimento Difesa del Cittadino, Antonio Longo, che saluto subito. Presidente, buongiorno e ben trovato. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Abbiamo anche un esperto di recupero crediti, Gianpaolo Luzzi, presidente dello studio Luzzi Associati. Buongiorno Luzzi e ben ritrovato anche a lei. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. E c'è subito da precisare che Luzzi, per la verità, questa mattina vorrebbe un pochino correggere il tiro rispetto alla grande preoccupazione che invece si è manifestata per qualcuno di fronte a questa novità. Non dico che vuole minimizzare il problema, però vorremmo un po' anche tranquillizzare sulla portata di queste notizie. Prima di tutto questo, però, come sapete, abbiamo l'appuntamento con la borsa. E valorizziamo al massimo anche le notizie su questa giornata finanziaria, che è molto positiva. La settimana parte piuttosto bene per le borse europee, la settimana scorsa sono state più incerte, soprattutto Milano, che naturalmente risultava la più penalizzata di tutte per questo stallo politico che si è risolto nelle fine settimana, anche se, come abbiamo già detto anche nel giornale radio, al photo finish con la rielezione, l'accordo sulla rielezione di Giorgio Napolitano alla Presidenza della Repubblica. Adesso si apre un'altra partita importante, quello della formazione del nuovo governo. In ogni caso il mercato appare più tranquillo. La borsa italiana guadagna l'1,76% sul FTSE MIB. Sono positive e ben intonate anche le altre borse europee, ma in misura molto inferiore rispetto a Piazza Affari. Parigi ha un rialzo dello 0,40%, Francoforte più 0,66%, Londra più 0,76%, anche Madrid in rialzo di circa un punto. In rialzo di circa un punto, tra l'altro, oggi proprio l'osservata speciale d'Europa, ma vedo con poco impatto, è Londra, perché Fitch, dopo Moody's, ha tagliato il giudizio appunto dell'Inghilterra, il rating, ma vedo che appunto non c'è più di tanta preoccupazione, forse il mercato aveva già digerito questo nuovo orientamento delle agenzie di rating. Pensate che erano 35 anni che la Gran Bretagna godeva della massima affidabilità appunto da parte delle agenzie di rating dal 1978. Vediamo a Milano che sta andando molto bene tutti i titoli bancari grazie allo spread che si è ridotto a 285 punti base, UbiBanca più 4,75%, Generali più 4,60%, Mediaset più 4,54% con un rialzo di oltre 4 punti. Abbiamo un bel po' di titoli perché c'è anche il Banco Popolare, c'è Unicredit, c'è A2A, mentre in calo abbiamo tre titoli che oggi staccano il dividendo: Prismian che scende del 2,36%, Fiat Industrial e Telecom Italia. È tutto per la borsa, andiamo subito al tema di stamattina, le novità sulle pignoramento di pensioni e stipendi. Non riuscire a pagare un debito e vedersi per questo pignorata in un colpo solo l'intera pensione o stipendio. Un incubo, un errore o un brutto scherzo, staranno pensando in molti, soprattutto chi già con la mensilità intera fa fatica ad arrivare alla quarta settimana. Si tratta invece di una preoccupante realtà che nasce da una infelice combinazione, probabilmente non prevista, tra due recenti decreti. La legge prevede infatti un limite che dovrebbe garantire la sussistenza della persona per il pignoramento da parte di creditori terzi dello stipendio o della pensione. Questo limite, in precedenza fissato per tutti al 20%, un quinto della retribuzione, è stato modificato dal decreto legge sulla semplificazione del 2012, rendendolo variabile a seconda delle fasce di reddito. I nuovi limiti sono un decimo per gli stipendi derivanti dal rapporto di lavoro fino a 2.500 euro, un settimo da 2.500 euro a 5.000 euro e un quinto per stipendi oltre i 5.000 euro. La validità di questi limiti, però, è relativa solo al pignoramento che avviene in modo diretto, alla fonte, e quindi da parte del datore di lavoro o dell'ente previdenziale. Non si applicano nel caso in cui il pignoramento venga attuato sul conto corrente. Il denaro presente nel conto non è più considerato pensione dal momento in cui viene versato, come ha confermato anche una sentenza della Corte di Cassazione. La somma depositata in banca diventa quindi pignorabile anche al 100% e il debitore può ritrovarsi il conto prosciugato e al tempo stesso non poter contare sul suo assegno mensile. Il quadro si aggrava ancor di più se si considera che il decreto Salva Italia, approvato pochi mesi prima, ha previsto l'obbligo di aprire un conto corrente bancario o postale per ricevere stipendi e pensioni superiori a 1.000 euro. Una situazione che non lascia via d'uscita e che qualcuno ha già definito un vuoto legislativo e una beffa per il contribuente. Equitalia, dal canto suo, ribadisce di non poter conoscere a priori se il denaro depositato sul conto sia un accantonamento o il deposito dello stipendio o della pensione, che non vengono scorporati dal resto dei risparmi, ma fa presente di poter adottare eventuali correttivi di fronte ad una richiesta da parte del contribuente che comprovi che sul conto confluiscono solo la pensione, lo stipendio o un'altra indennità. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande, i vostri interventi in diretta. C'è già pronta Paola da Terni che vorrei sentire subito. Vorrei anche dire che il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha riconosciuto un problema che sta diventando serio, dice, sul pignoramento degli stipendi e bisogna intervenire con nuove regole. Lo ha rimarcato con grande chiarezza in un'audizione alla Commissione Speciale della Camera nei giorni scorsi e ha spiegato, appunto, lo dicevamo anche nella nostra scheda, che l'amministrazione non può pignorare più di un quinto dello stipendio della pensione, ma nel momento in cui interviene su un conto non sa se è su questo che viene accreditata la busta paga, per cui chiaramente qua il pignoramento potrebbe avvenire integralmente di tutta la somma che si trova in giacenza sul conto. Alcuni deputati peraltro avevano anche annunciato la disponibilità a presentare un emendamento al decreto sui debiti della pubblica amministrazione per uno stop al pignoramento delle pensioni, ma credo che proprio non ne sia stato fatto nulla. Sentiamo subito Paola da Terni e poi cominciamo la nostra chiacchierata con Antonio Longo e Giampaolo Luzzi. Paola, buongiorno. Buongiorno Deborah, simpaticissima, l'ascolto spessissimo. Grazie. Senta, Paola, sì. Dunque, io sono un'insegnante elementare in pensione. Sì. E percepivo una pensione di 1.450 euro. Il mese di marzo sono andata per ritirare proprio il 16, il giorno dell'accreditamento, e mi sono trovata che non potevo ritirare 1.000 euro come avevo intenzione di fare, perché mi era stato accreditato soltanto 430 euro. rispetto agli, insomma, praticamente una sottrazione di 891 euro. Tenete presente che io non ho nessun debito in corso. Sul libretto in cui è depositata la mia pensione e quella di reversibilità di mio marito, che è morto lo scorso anno, c'è soltanto questo, l'accreditamento delle pensioni ai miei eventuali prelievi. Le è arrivata la certificazione appunto non della... Non mi è arrivata nessuna informazione. Sono andata a chiedere all'INPDAP immediatamente e mi è stato risposto con molta ironia che potevo anche essere contenta perché qualcuno era rimasto con 2 euro. Sì, vabbè. Allora Paola, detto questo, adesso io non so esattamente se sia il suo caso ascrivibile a quelli che vorremmo affrontare questa mattina, però se vuole faccio far fare subito un commento ai nostri ospiti. Intanto Antonio Longo, se la nostra ascoltatrice non aveva nessun tipo di debito, dubito che questa sottrazione di questa cifra sia riconducibile ad una ipotesi di pignoramento, qua è successo qualcos'altro. Detto questo però vuole già commentare? Diciamo che comunque è una violazione gravissima del diritto del cittadino ad essere informato adeguatamente ogni qualvolta la pubblica amministrazione gli sottrae 1 euro. Cioè, io ritengo davvero assurdo in questo paese che un cittadino si possa veder togliere 5, 6, 700 euro, ma anche soltanto 50 euro. Senza informazione senza preventiva. Una comunicazione precisa, signor Longo, lei avrà 50 euro in meno di pensione, 500 euro, perché c'è questo motivo, il conguaglio, conguaglio fiscale, il conguaglio della dichiarazione di redditi. Esatto, no, devo dire Paola adesso quindi, non l'ha detto, ma anticipando la sua domanda alle nostre colleghe del centralino, aveva proprio esplicitato che si trattava di un conguaglio fiscale, c'era una dicitura apposita, poi adesso non ha preciso. Esatto, non so per quale motivo questa è l'emozione. Aggiungo soltanto che anche in questo caso è parimenti assurdo che si sottragga in un'unica volta, in un'unica rata, tutto l'eventuale conguaglio fiscale, l'eventuale debito verso il fisco e non si rispetti appunto una normativa che dovrebbe essere sacrosanta, cioè quella di rateizzare il debito del cittadino in modo da permettergli di avere un reddito di sopravvivenza. E su queste sono considerazioni sacrosante che sottoscriviamo al 100%. Detto questo invece, Antonio Longo, la vostra associazione dei consumatori è quella che con più vigore ha denunciato invece la novità che è al centro della nostra trasmissione di questa mattina, al punto che avete anche organizzato una petizione online. Abbiamo lanciato una petizione online perché riteniamo intanto assurdo che succedano cose del genere e qua c'è un problema proprio di legislatore che a volte decide alcune cose senza prevedere l'impatto fino in fondo. Nella normativa europea, lei sa bene, ogni qualvolta la Commissione europea prende un provvedimento c'è la cosiddetta valutazione di impatto, e cioè si cerca di vedere che cosa succede una volta approvata quella determinata direttiva o un regolamento. Ecco, in Italia questo si dimentica molto spesso. Spesso non c'è affatto, ma dovevano prevedere una situazione del genere. Detto questo, allora, la difesa più o meno d'ufficio del dottor Befera ci sembra assolutamente discutibile, perché intanto la Equitalia, l'Agenzia delle Entrate, chiunque effettui il prelievo, la riscossione dovrebbe avere la cortesia istituzionale di correttezza verso il cittadino di verificare prima qual è la natura dei versamenti che ci sono su quel conto corrente, cosa che non è assolutamente difficile, non è per nulla difficile, basta farsi mandare l'estratto conto degli ultimi 12 mesi, dell'ultimo mese eccetera e vedere qual è l'importo che viene versato periodicamente di pensione a vario titolo, indennità eccetera, su quello fare il prelievo. Diciamo che è chiedere tanto? No, non è assolutamente chiedere tanto, è un'obiezione ragionevole, teniamo conto anche del fatto che è iniziato anche proprio da poco il cosiddetto trasferimento dei rapporti con gli intermediari finanziari e l'amministrazione finanziaria, tutto nell'ottica, tema che abbiamo già affrontato a Salvadanaio, che ha scatenato grande polemica da parte degli ascoltatori. Di fatto questo è un ulteriore veicolo che il fisco ha per conoscere la nostra relazione con la banca e tutta la tipologia di rapporti che appunto intercorre tra un contribuente e il proprio istituto di credito, per cui siccome queste informazioni effettivamente il fisco ce l'ha in teoria, allora una cosa, sì. Però a parte anche se non ce l'ha per casi problematici, magari può anche chiedere. Vorrei solo aggiungere una cosa, che anche l'affermazione del dottor Befera, che il cittadino dovrebbe dimostrare, certificare in qualche modo che su quel conto ci sono soltanto i proventi della pensione propria di reversibilità eccetera, anche questo è risibile da respingere, perché allora questo significa che il cittadino dovrebbe avere non uno ma più conti correnti per poter stare tranquillo e in questo modo le sue spese verso la banca aumenterebbero. È inaccettabile anche questa richiesta del dottor Befera. E l'altro aspetto dell'inversione dell'onere della prova, certo, che aveva fatto tanto incaponire tutti quanti, anche relativamente al tema del redditometro. Ora, noi signori dell'Agenzia delle Entrate li abbiamo chiamati, questa mattina non hanno dato la loro disponibilità di intervenire in diretta per esprimere la loro posizione, e comunque ribadiscono, è un tema di vuoto normativo, noi purtroppo non possiamo far altro che applicare le norme così come le conosciamo. Adesso devo andare in pausa. Anticipo però già Gianpaolo Luzzi, che il tema sul quale vorrei soffermarmi con lui, oltre chiaramente a chiedergli anche un commento su tutto ciò di cui parliamo questa mattina, è che vorrei capire in effetti quando il pignoramento si effettua per il tramite del datore di lavoro, dell'ente previdenziale che eroga la pensione, e quando invece c'è la situazione, il caso in cui un creditore si vada a rivalere direttamente sul conto corrente, perché qui abbiamo evidentemente una pletora di situazioni sulle quali bisogna fare chiarezza. Eccoci ritrovati in diretta a Salvadanaio. Adesso vi ricordo ancora il tema del quale stiamo parlando questa mattina. Prima però una piccola informazione di servizio. Domani al Sole 24 Ore si tiene il Forum Lavoro 2013, organizzato dalle Sole, dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Verranno analizzati nel corso di tutta la giornata i temi caldi del momento, l'attuazione della riforma Fornero, e quindi insomma per chi volesse mantenersi in collegamento con questa iniziativa. Per informazioni sul programma completo potete collegarvi al sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com/forum-lavoro. Peraltro, visto che l'abbiamo citato più volte questa mattina, ci sarà anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Di cosa parliamo invece noi oggi? Quest'oggi, stipendi e pensioni pignorati senza limiti, per dirla in maniera molto forte, come è passata anche questa notizia. È una novità che è stata lasciata in eredità dalla manovra Salva Italia di un anno e mezzo fa, ed è stata una notizia che ha fatto letteralmente balzare sulla sedia milioni di contribuenti italiani, soprattutto quelli che sono alle prese con debiti fiscali non pagati e che adesso rischiano di vedersi sottratta la pensione, lo stipendio nella misura dell'intero importo, se la restituzione di quanto non pagato non avviene per il tramite appunto del datore di lavoro, dell'azienda, oppure per il tramite appunto dell'ente che eroga la pensione stessa. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per le vostre richieste di chiarimento su queste novità. Prima di sentire Giovanni dalla provincia di Lecce, che è collegato telefonicamente con noi, qualche chiarimento invece con il nostro esperto di recupero crediti, Gianpaolo Luzzi. Luzzi, buongiorno, le chiedo un commento su tutto questo, sì, e poi se ci aiuta anche a capire quando avviene il meccanismo di pignoramento di una parte dello stipendio, perché c'è un contribuente che è in difficoltà, magari non versa regolarmente le tasse, allora l'amministrazione fiscale interviene attraverso un piccolo prelievo del proprio stipendio o della propria pensione, quando invece non scatta questo passaggio per il tramite del datore di lavoro o dell'ente che eroga appunto la pensione. Vabbè, il problema sta in questi termini: quando non si paga chiaramente un debito, se è sollecitato, il creditore si attiva. E in che modo? Tutta una serie di tentativi in via stragiudiziale, poi dopodiché, se non si arriva a un accordo, c'è chiaramente l'azione legale. L'azione legale prevede, dopo il decreto ingiuntivo, l'azione esecutiva, il precetto, e quindi il pignoramento dei beni del debitore. Il debitore. Appunto, c'ha il suo stipendio, per esempio, se è un lavoratore autonomo c'ha i crediti che vanta nei confronti dei propri clienti, e c'ha pienamente dei soldi, dei titoli in banca, se ne ha naturalmente, se ne sono rimasti, e può avere dei mobili di casa più o meno preziosi, tappeti, quadri e così via, la casa stessa, gli immobili, il garage, quello che può avere. L'auto, eccetera, questo per un lavoratore autonomo. Dice lei. E per anche il lavoratore chiaramente dipendente, cioè il debitore, quelli che sono i beni su cui si può soddisfare il creditore. il debitore non paga spontaneamente, non paga dietro l'ordinanza del giudice, il creditore procede, chiaramente il codice di procedura civile gli dà questo tipo di opportunità. Il pignoramento del conto corrente, dei soldi sul conto corrente, dei titoli che si hanno depositati nella propria banca, è un qualcosa che esiste da 60 e passa anni, cioè c'è sempre stata. La novità adesso cos'è? È che chiaramente dal pignoramento dello stipendio, o ribadisco che è molto più grave, molto più impattante, dei crediti presso terzi, il lavoratore autonomo, il professionista che vanta una parcella nei confronti del suo cliente, è possibile andargli a pignorare l'intera parcella, l'intero credito che vantava nei confronti del cliente. Invece il lavoratore dipendente è tutelato perché al massimo gli si può pignorare un quinto. Ebbene, ma il fatto di poter pignorare delle somme che hanno in banca è qualcosa che esiste ormai da sempre. Il problema qual è? Il problema è che quando lo Stato, che è un grande fratello, che conosce tutto di noi, sa esattamente tutti i nostri conti correnti, quanti soldi abbiamo depositati sul conto corrente, quando è lo Stato che gioca in questa maniera, che non si accontenta più, potrebbe pignorare il quinto dello stipendio, ma siccome c'ha tutti i dati, perché ci ha obbligato a dirgli tutti i nostri conti correnti, vede dov'è che ci sono più soldi, qual è il conto corrente più capiente, va lì e si prende tutto. Questo è una cosa pazzesca. Oltretutto, il creditore privato, il libero professionista che non riesce a farsi pagare dal suo cliente e vuole agire nei confronti del suo cliente, per scoprire eventualmente la banca del suo cliente, beh, probabilmente la conosce perché sa da dove gli arrivavano i bonifici, eccetera, ma se non volesse scoprire tutte le banche del suo cliente, dovrebbe andare a fare delle indagini investigative molto costose e molto lunghe, invece lo Stato no. Ecco, dico, la differenza e la novità è in questo, che lo Stato, si sa che gioca con le carte truccate, prende si prende tutto, ma a livello dei privati, e quindi tipicamente la finanziaria, la banca, il creditore, l'utente, l'utenza e così via, che cerca di riprendersi il suo denaro davanti al debitore che non paga. Quindi se io per esempio ho chiesto un prestito e non riesco adesso ad onorarlo ad una società di credito al consumo, che cosa succede in quel caso? Quale tipo di pignoramento potrei, chiaramente non nell'immediato, perché questa non è una procedura che scatta dopo la prima rata non pagata, ci vuole po', cosa succede lì? Per fortuna i privati, la finanziaria, banca e compagnia cantando, prima di partire ad aggredire in questa maniera così coattiva il povero debitore, normalmente hanno tutta una fase in cui affidano le proprie pratiche a una società di recupero che dialoga con il debitore e quindi trova un accordo, ringraziando il cielo. Lo Stato ti piomba addosso e ti fa secco, ma il privato, se Dio vuole, dialoga. Finito il dialogo, laddove non c'è stata possibilità di trovare un accordo, perché non c'è stata possibilità, loro possono fare ciò che il codice di procedura civile consente, quindi di andare ad aggredire, giuridicamente dico, i beni del debitore. E quali sono questi beni? Lo stipendio è un bene, certo. I crediti presso il terzo è un bene, i soldi che hanno in banca è un bene. Il problema qual è? Che per un privato conoscere qual è un conto corrente capiente, cioè che ci sono dei soldi sopra del debitore, è un grosso problema. Per lo Stato no. Però dico questo, cioè quello di fare un pignoramento presso la banca era uno degli strumenti. No, sì, questa ha ragione lei. Il problema è che però nel decreto Salva Italia, come lei ben sa, è stata introdotta la novità di obbligare i pensionati ad aprire un conto corrente bancario o postale per ricevere la pensione superiore a 1000 euro, quindi diciamo che le associazioni dei consumatori hanno voluto soprattutto enfatizzare queste novità a beneficio di queste categorie, no? Perché se un piccolo pensionato che prende una pensione di poco più di 1000 euro e lei sa benissimo che a malapena ci si campa con una cifra di questo tipo, non ci si arriva alla quarta settimana, manco alla seconda. Se gli capita di avere un piccolo debito con il fisco perché magari esce fuori una rogna del passato, allora è lì che l'associazione dei consumatori ha voluto, sappiamo che era possibile pignorare appunto anche un importo su un conto corrente in passato. Il problema è che diciamo tutta questa novità di norme non tutela le figure sociali estremamente deboli come queste. Le faccio sentire, visto che ha introdotto il tema delle società finanziarie, Luzzi, la domanda di Giovanni da Lecce, a cui temo di aver già risposto, però se Giovanni volesse avere ulteriori precisazioni siamo qua. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Il signore ha già risposto. Volevo solamente chiedere una cosa: se i debiti con le finanziarie possono essere cumulabili, quindi per un debito di 8.000 euro può essere pignorata la casa in caso. Allora, intanto Giovanni, bisognerebbe vedere anche lo stato dell'arte del non rimborso, diciamo del non pagamento di questo impegno. Luzzi. Sì, non c'è niente che lo impedisce, c'è dei limiti chiaramente per il pignoramento immobiliare all'entità del credito, ci sono stati sempre stati casi, però questo è sempre lo Stato che per poche centinaia di euro aveva bloccato appunto macchinari costosissimi piuttosto che gli immobili. Adesso poi è stato elevato questo limite che riguarda sostanzialmente però lo Stato. Il privato lo può fare, ma il problema è che non lo fa, perché un pignoramento immobiliare ha un costo elevatissimo e ha dei tempi estremamente lunghi, per cui prima per 8.000 euro di andare a prendere e a bloccare una casa, a pignorare e a fare un pignoramento immobiliare su una casa, con molta probabilità punterà su uno stipendio, su un compenso, su un conto corrente bancario, insomma, se riesce a scoprirlo naturalmente. Però penso che la cosa migliore, se quella è la situazione, di mettersi lì e dialogare, perché ribadisco, con banche finanziarie e creditori in generale si dialoga, con lo Stato no, ma con i privati si dialoga, io ne approfitterei. Sì, allora Giovanni, le diamo questo suggerimento, se magari volesse scriverci dandoci qualche dettaglio in più rispetto alla sua situazione, magari le diamo anche qualche il problema, che se magari Giovanni si trova temporaneamente senza reddito e magari non ha le risorse per poter, anche dialogando nel miglior modo possibile con il suo creditore, appunto, se non ha disponibilità finanziaria, perché dopo che ha pagato la spesa e le bollette magari non riesce, qua il problema è un altro. Tra l'altro, Giampaolo, Luzzi, stamattina mi ha colpito molto un articolo che ho trovato su Repubblica nelle pagine di Milano. Tarso, ultimo avviso agli evasori, c'è in corso di invio una lettera da parte del comune appunto di Milano a 80.000 famiglie che non hanno pagato la Tarso, l'imposta appunto sui rifiuti, la tassa sui rifiuti nel 2012. Tutto questo peraltro in attesa che si dia il via libera alla nuova TARES. Se tipicamente, per esempio, non pagare una tassa di questo tipo può dar vita ad una condizione di pignoramento dello stipendio, della pensione? Eh sì, perché lì agiscono le società di riscossione tributi, normalmente che hanno del potere in più rispetto ai privati. Purtroppo, ribadisco, lo Stato gioca con le carte truccate, tutta la pubblica amministrazione gioca con le carte truccate, per cui ci si può ritrovare, sì, effettivamente, secondo che importo, ipoteche, eccetera, eccetera, anche praticamente a propria insaputa. Perché lì è un procedimento speciale di diritto amministrativo che non ha niente a che vedere con il diritto di procedura civile. Ci fermiamo adesso, abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, magari oggi mi assiste Luca Cremonese in diretta, possiamo riprovare a sentire il telefono di Giampaolo Luzzi, perché secondo me il collegamento non era buono, magari abbiamo qualche piccolo problema telefonico, poi sentiremo, ritorneremo da Antonio Longo nel Movimento Difesa del Cittadino e poi sentiremo anche le difficoltà in cui si trova Luca da Milano che cerca in ogni modo di pagare i debiti che ha contratto, ha qualche difficoltà adesso prima di arrivare ad una condizione appunto di pignoramento del proprio denaro in banca. Vediamo se si può fare qualcos'altro per lui. Antonio Longo, Movimento Difesa del Cittadino, le volevo chiedere un commento su tutte le riflessioni che abbiamo fatto con Giampaolo Luzzi appunto, e volevo capire se ho capito male io che le associazioni dei consumatori si sono particolarmente inviperite per queste novità, proprio per soprattutto l'effetto che si potrebbe avere sui pensionati che da qualche mese hanno l'obbligo di versare su conto corrente, di accreditare su conto corrente la propria pensione. Antonio Longo, sì, dov'è finito? No, ero un attimo sovrappensiero perché stavo cercando di capire come se ne poteva uscire da questa situazione. Io penso che l'ultimo atto forse del governo Monti potrebbe essere proprio quello di fare una precisazione, di un solo articolo, di un solo comma in cui si dice che tutte le somme relative a pagamenti pubblici, pensioni eccetera, non possono essere, cioè confermare che prima di fare il prelievo da parte della pubblica amministrazione per debito bisogna verificare la natura dei soldi depositati. Questo dovrebbe essere obbligatorio e accanto a questo ci dovrebbe essere sempre un obbligo che in realtà c'è per lo statuto del contribuente ma non viene osservato, di informare il cittadino di qualsiasi prelievo viene effettuato a suo carico, così come di informarlo tempestivamente. Oggi abbiamo l'online, abbiamo i cellulari, abbiamo mille altri strumenti di un provvedimento di natura finanziaria che la pubblica amministrazione sta prendendo a suo carico. E invece comunicano sempre tutti a posteriori e mai a priori, e questo appunto è un aspetto. Ma un'ultima battuta, sì, mi permetta, sì, sì. Io trovo davvero odioso, l'abbiamo denunciato a suo tempo, che con la scusa della battaglia contro il riciclaggio, contro l'evasione, contro l'elusione, si sia obbligato chi prende 1.000-1.100 euro di pensione ad aprire un conto corrente bancario o postale. È davvero una cosa grottesca questa. E guardi, abbiamo fatto tante trasmissioni anche su questo argomento, per la verità noi abbiamo sempre un'ottica, come dire, anche un atteggiamento e anche peraltro, che mi viene anche molto spesso contestato dai nostri ascoltatori, di grande responsabilità nei confronti delle novità che arrivano, e noi cerchiamo sempre così di metterci in una posizione di spiegazione delle novità e di cercare di renderle più leggere per tutti, più praticabili per tutti. Detto questo, qua qualche volta corre anche l'obbligo da parte nostra di riconoscere effettivamente quando le cose non vanno, ed effettivamente sulla situazione di tanti pensionati bisogna accendere un faro di maggiore attenzione. Questo lo dico appunto non solo a chi si appresta anche a governare di nuovo, vedremo quando avremo un governo, ma anche da tutti gli enti che gestiscono i nostri problemi da altri punti di vista, quindi l'INPS piuttosto che l'Agenzia delle Entrate. Invece vedo che quando insomma ci troviamo in una condizione di emergenza come quella che porta poi a legiferare in condizioni di velocità e poi ecco si mettono insieme delle norme che sono palesemente incompatibili come quelle di cui parliamo questa mattina, e insomma ci ritroviamo poi a fare le trasmissioni, siamo costretti anche noi a fare dietro fronte rispetto a tutte le nostre convinzioni che tradizionalmente portiamo in diretta. Allora Luca da Milano, buongiorno, sentiamo se riesce il nostro Giampaolo Luzzi, esperto di recupero crediti e di gestione di situazioni di difficoltà di molte famiglie e imprese, a darle una mano. Luca, buongiorno. Senta, buongiorno, innanzitutto scusi se disturbo. Perché? Avrei bisogno... No. Ci mancherebbe altro, siamo qua per voi, che disturbo. Senta, ci dica. Io avrei bisogno di una cortesia, un consiglio. Io 4 anni fa praticamente mi sono trovato invischiato in una situazione di debiti senza che lo sapevo. Le spiego, mia moglie aveva un'attività che è andata male, io non lo sapevo, sapevo che aveva l'attività certamente di abbigliamento, però non sapevo che questa attività andava male. E lei a me mi ha fatto firmare delle carte come garante verso dei prestiti, fra cui sto cercando di onorare, no? Allora, a questo punto cosa ho fatto? Quando ho visto questa situazione che era insostenibile con i fornitori, ho cercato di liquidare i prestiti facendo dei prestiti con le banche, no? Con 2 banche dove cui io lavoro perché sono un agente rappresentante. Ora, il problema è, con le banche sto riuscendo a rientrare pian piano. Rientrare pian piano. Questo le garantisco, svendendo appartamenti. Perché me lo posso immaginare, Luca, però la sento. Di 400.000 euro, guardi, io lasci stare. Il problema è che oltre questo io ho delle finanziarie, no? Queste finanziarie io gli ho spiegato che purtroppo io finché potevo riuscivo a pagare. Tutti i mesi pagavo certo. Regolarmente. Ma non si può manco svenare, Luca, certo. Adesso il problema dove è stato? Sto vendendo l'ennesimo immobile, no? Perché praticamente gli hanno fatto dei prestiti al 15% questi finanziari a mia moglie, no? E il problema dov'è? È che io non li sto pagando, non sto pagando né le finanziarie, non sto pagando più neanche la rata del mutuo di casa mia, perché non riesco più a arrivarci, perché non avendo più i soldi nel conto corrente, che li ho finiti, perché tutti i mesi il mio stipendio più i soldi che avevo andavo avanti a pagare. Ora la mia preoccupazione è questa, come devo fare? Perché io ho chiesto a loro anche, per favore, avendo dei terreni e 2 negozi a nome mio, no? A garanzia, non mi hanno dato neanche la possibilità, oltre lo stipendio mio che sono responsabile di casa nel commercio, di rientrare anche con queste garanzie, capisce quello che voglio dire? No, non abbiamo capito, guardi, è molto chiaro. Luca, attenda un attimo, la faccio interagire subito con Giampaolo Luzzi, che immagino di queste storie ne sente dalla mattina alla sera tante. Ecco. Lui ha comunque addirittura ancora mantiene delle proprietà che non capisce per quale motivo non possa far valere a garanzia nei confronti di queste finanziarie per i debiti che ha ancora in piedi. Beh, finanziare il mestiere non è quello, no, di essere proprietaria a terriera, evidentemente insomma ha necessità di liquidi, però io penso questo, probabilmente Luca sta parlando con degli intermediari, con delle società di recupero che a loro volta hanno un mandato preciso da parte della finanziaria e quindi hanno chiaramente dei limiti piuttosto rigidi. Probabilmente la cosa migliore è che lui vada direttamente alla fonte, all'ufficio legale, all'ufficio contenzioso della finanziaria, e al credit manager, insomma al direttore crediti della finanziaria, cerchi di parlare direttamente lì, perché a quel punto chiaramente ha un interlocutore che può muoversi a 360 gradi. Viceversa, finché si parla con l'intermediario, ha un mandato normalmente molto breve nei tempi e anche nelle modalità con cui si magari può, chiediamo a Luca, lei ha capito se sta parlando già con la società che gestisce il recupero crediti per conto di queste finanziarie con le quali lei ha appunto in ballo queste situazioni? Luca? No, a me mi, sì, pronto. Sì. A me mi chiamano ogni allora, io praticamente adesso ne ho saltate due, io sono tre finanziarie, praticamente due per ogni finanziaria, no? Però non mi danno neanche la spiegazione di dire: guardate, io a breve sto vendendo un negozio e rientro. Mi sento minacciato, tipo io poi che non sono abituato, discorsi tipo l'altro giorno mi hanno detto stragiudiziale o situazioni del genere. Ora io, oltretutto, mi permetto, io do anche la colpa. Io queste finanziarie me le ritrovo come a garanzia, le spiego, perché mia moglie ha messo il mio nome tramite le banche a garanzia senza che io lo sapevo, capisce? Certo, quindi certo, lei infatti. Io gliel'ho detto a loro, ma io non avrei mai fatto questi debiti, cioè mia moglie mi ha chiesto la carta d'identità e mia moglie, mi fido, e la banca gli ha dato i documenti da portare a casa e hanno firmato. Luca, facciamo una cosa, io lo so che magari lei adesso è anche nella condizione emotiva di non aver molta voglia di scrivere una mail dettagliata sul suo caso, però magari se ci aiuta con Giampaolo Luzzi cerchiamo di analizzare un po' meglio questa situazione che è estremamente delicata, lunga, e vedo che ci sono in ballo diverse relazioni appunto con diversi soggetti, per cui forse vale la pena. Comunque un ultimo suggerimento, Giampaolo Luzzi, in un momento in cui ritorno a commentare i dati del giorno, ci sono 1 milione di famiglie senza reddito da lavoro, come dice l'Istat, dettaglio dato analizzato da tutte le associazioni dei consumatori nel fine settimana, e qua sembra che ormai la prerogativa fondamentale della famiglia sia diventata quella di indebitarsi per andare avanti. Due suggerimenti prima dei saluti. Beh, il primo suggerimento: prima di mettere una firma in avallo, fiduzione eccetera, pensarci quattro volte e poi magari non farne di niente, sia la moglie era la moglie che doveva fare quello, ormai è andato. Vabbè, io ho visto situazione fra fratelli e sorelle, poi vabbè, lasciamo fare. Stiamo chiudendo, 5 secondi. E poi i conti correnti, una volta che uno ha ricevuto la pensione può benissimo toglierla e lasciare il conto corrente a zero, qual è il problema? Accreditarla da un'altra parte? No, accreditarla, portarsi a soldi a casa, prendere il contante e portarsela a casa. Benissimo. Come era prima. Grazie Giampaolo Luzzi, ad Antonio Longo, noi ci sentiamo domani con Salva Danaio, grazie a Luca Cremonese per l'assistenza in redazione, Gianmarco Ferronati in assistenza tecnica, buona giornata a tutti. Salva Danaio.